L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Il commercio elettronico è un fenomeno in forte espansione in Europa. Nel solo 2014 c'è stato un incremento di circa il 13% rispetto all'anno precedente. Secondo una recente ricerca Eurostat, il 41% degli europei è disponibile a fare acquisti tramite internet, una percentuale che si riduce tra le imprese, dove solo il 15% sceglierebbe questa formula. Il Regno Unito è il paese europeo dove il fenomeno è più radicato. In Italia rappresenta per ora solo il 3,6% dei consumi, con un trend però in salita. Nel 2014 l'e-commerce ha movimentato infatti in Italia circa 9,5 milioni di pacchi al mese, superando ampiamente gli 8 milioni del 2013. La distribuzione materiale degli acquisti effettuati in rete è la chiave del successo di questo fenomeno. Prodotti elettronici, abbigliamento, scarpe, le tre principali categorie di beni acquistati in rete, devono essere consegnati in tempi brevi e quasi sempre al domicilio dell'utente. Una flessibilità oggi garantita solo dai corrieri. Era il febbraio del 1996 quando per la prima volta in Italia veniva inaugurato un centro commerciale virtuale. Cybermercato è il nome del progetto realizzato da Olivetti quasi 20 anni fa e rivolto a tutti coloro che allora erano in possesso di un collegamento internet. Oggi, come abbiamo ascoltato dalla scheda, il commercio elettronico ha modificato radicalmente il nostro modo di fare acquisti, grazie anche ad una complessa rete distributiva in grado di consegnarci in poche ore i prodotti che compriamo in rete. Ma quanto è diffuso il fenomeno in Italia? Lo chiediamo a Roberto Liscia, presidente del consorzio Netcom. Il commercio elettronico in Italia si sta diffondendo mese dopo mese in maniera graduale e lineare. Siamo partiti con poche aziende, oggi siamo arrivati a più di 30.000 aziende che vendono online e sono più di 16 milioni gli italiani che comprano costantemente online, quindi il commercio elettronico è entrato nelle abitudini degli italiani con praticamente tutti i mezzi che oggi sono a disposizione. Se prima si comprava solo su un PC, oggi si compra su un PC, su un tablet e su uno smartphone. La cosa interessante è che lo smartphone sta diventando in qualche misura l'elemento chiave, l'elemento centrale del comportamento d'acquisto, non soltanto del comportamento d'acquisto, anche del comportamento della ricerca, perché dobbiamo sapere che il commercio elettronico non è soltanto acquisto, ma è in qualche misura ricerca di informazioni, certo. Informazioni da parte anche di altri, e quindi tutto il mondo dell'informazione digitalizzata è diventato un patrimonio che sta cambiando i connotati del comportamento del consumatore e non soltanto dell'acquisto in quanto tale. Ecco, rispetto agli altri paesi europei, l'Italia come è posizionata per quanto riguarda la diffusione del commercio elettronico? L'Italia, come al solito, è il fanalino di coda. Su circa 400 miliardi di euro in Europa, il 60% di questa torta se la spartiscono gli inglesi, i francesi e i tedeschi, e l'Italia ha una quota del 3,1%. Dobbiamo considerare che in Europa noi abbiamo creato un'associazione che si chiama E-commerce Europe con 19 paesi. In Europa in questo momento ci sono circa 700.000 aziende che vendono online e il commercio elettronico ha creato 2 milioni e mezzo di posti di lavoro. E la cosa ancora più in qualche misura critica è il fatto che noi, che siamo un paese nettamente esportatore, sul canale digitale importiamo più merci di quante ne esportiamo. Quindi il Made in Italy sta perdendo una grande opportunità. Ecco, cosa bisognerebbe fare per incrementare a questo punto la diffusione del commercio elettronico in Italia? Beh, quello che emerge dalle nostre ricerche è che i consumatori sono più avanti delle imprese. C'è un grande fenomeno di sottovalutazione da parte degli imprenditori italiani della necessità e esigenza di competere sul canale digitale, anche perché in questa fase in cui l'export tradizionale sta tirando, per usare un termine sintetico, c'è una certa disattenzione al fatto che il canale digitale è un modo per raggiungere un dato impressionante, quel 1,2 miliardi di persone che nel mondo comprano online. Quindi bisognerebbe in qualche misura aiutare le imprese a capire che stiamo perdendo un'opportunità storica. Abbiamo detto prima che in Italia il fenomeno dell'e-commerce è in costante crescita. Quali sono le previsioni per il futuro? Arriveremo ad un punto in cui i negozi reali non esisteranno più? Io credo che i negozi reali esisteranno sempre, tant'è che io non parlo più di e-commerce, ma parlo di commercio digitale. Quello che sta avvenendo è che i negozi fisici stanno prendendo sempre più, stanno sfruttando il digitale per creare quel meccanismo di engagement, di relazione, di marketing con il consumatore, così come il consumatore si aspetta dai negozi fisici. Il consumatore è cambiato, si aspetta lo stesso livello di prestazioni, di relazioni che ha sia nel mondo digitale che nel mondo fisico. Quindi il tema è che i negozi devono cambiare pelle e stanno cambiando pelle in tutto il mondo. Quindi non credo al fatto che l'e-commerce farà sparire il commercio fisico. Quello che mi aspetto è che il commercio fisico dovrà cambiare struttura, organizzazione e modalità di relazione. La catena logistica del commercio elettronico è un meccanismo in cui gli ingranaggi devono funzionare alla perfezione. Gestione degli approvvigionamenti, ricevimento dei prodotti nel magazzino, stoccaggio e gestione delle scorte, gestione degli ordini, fino alla consegna al cliente finale e al supporto del post vendita. Sono queste le fasi della catena logistica dell'e-commerce, con un ruolo sempre più significativo affidato alle nuove tecnologie. Ne parliamo in compagnia di Stefania Pezzetti, presidente di Fedit, che è l'associazione di categoria che raggruppa i corrieri in Italia. Acquisto, pago, ricevo a casa, queste erano le tre tappe che identificavano la prima fase dell'e-commerce. Oggi però le opzioni sono più ampie e diverse, dalla consegna in giornata al ritiro presso un locker, un pick up o un drop off direttamente presso una filiale di vendita. Insomma, Pezzetti, tante nuove sigle che noi consumatori dobbiamo imparare a conoscere. È un'evoluzione della consegna al privato, siamo passati da una consegna semplice, cioè una consegna a casa, a una consegna più evoluta, che in qualche modo rispecchia anche le esigenze dei consumatori. Sarà capitato a tutti noi di non trovarci a casa nel momento in cui arriva il corriere e di perdere quindi la consegna che attendevamo da tempo. Vi è adesso la possibilità, tramite tecnologie evolute, di poter ricevere il proprio bene in un locker, ovvero una specie di casella postale aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, di andarla a ritirare in un drop-off point, che sarebbe poi un negozio adibito a consegna per le merci, oppure di chiedere una consegna in orari diversi da quelli standard e quindi al rientro dal lavoro, per esempio di sera o il sabato mattina. Ecco, quindi tutte possibilità che hanno consentito sicuramente un ulteriore sviluppo del commercio elettronico anche in Italia. Molto spesso però i consumatori non sanno cosa c'è dietro tutto questo lavoro. Quali sono le principali difficoltà che si trova ad affrontare un corriere che deve gestire consegne così diverse e personalizzate? Ci sono problemi di pianificazione, nel senso che nel momento in cui vengono richieste delle opzioni di consegna diverse da quelle standard, si deve preparare un piano di distribuzione che può differire da quello normale. Questo significa avere corrieri pronti a consegnare oltre le ore 18, per esempio, il sabato mattina, piuttosto che installare, quindi con un costo, un investimento elevato, delle caselle, i cosiddetti locker box, per la consegna della merce. È anche importante l'evoluzione del software, della tecnologia, perché l'informazione deve viaggiare veloce, deve essere user friendly in maniera tale che tutti vi possano accedere. Invece, per quanto riguarda la movimentazione dei veicoli, c'è un progetto che vede come capofila Torino per una ottimizzazione della circolazione di questi veicoli, soprattutto all'interno delle ZTL. In che cosa consiste? Si tratta di un accordo fra il Comune di Torino e le associazioni di categoria che tende a favorire le aziende, diciamo, virtuose, ovvero le aziende capaci di investire in mezzi che siano environmental friendly, ovvero a basse emissioni, e quindi queste aziende possono accedere ai centri urbani che normalmente sono chiusi al traffico in orari prestabiliti, orari però che sono assolutamente in sintonia con le esigenze dei corrieri. È un esperimento importante, un'evoluzione nel nostro paese. Molti paesi europei sono già ben oltre l'Italia nell'organizzazione della distribuzione urbana,